alle 10. C'era Gianfranco. Sì, avanti, che cazzo. Sono Carlo Gianfranco, buonasera, ben sentito. Ciao, buonasera Carlo Gianfranco. La chiamata non l'ho sentita perché c'era il volo un po' basso, non me l'ero accorto. Ok, come sto uscendo? Ti arrivo bene? Sì, benissimo, la radio è ottima, non è fortissima, comunque ti ascolto bene, dato che il segnale anche è notevole, ecco. Io sono a casa, ho acceso adesso un attimo, ho detto vediamo se c'è qualcuno sul 10, se ho sentito la tua chiamata e tutto qui. Niente, io ho provato anche stamattina a chiamare sul 10 ma non c'era nessuno, stavo rientrando da lavoro e niente, i giorni scorsi ho provato a fare una chiamata a Claudio ma no, non l'ho sentito nemmeno lui in questi giorni. Tutto qui, non so se ci sia qualcun altro che vuole entrare. Buonasera Natalino Alfa 1. Buonasera Natalino. Ciao Natalino. Ciao Gianfranco, ciao Carlo. Non so se ci sia qualche altro in ascolto, ho acceso adesso e ho sentito a voi. Credo che non ci sia nessuno, perché io ho acceso pochi secondi fa, ho sentito Gianfranco e poi ho detto vediamo se c'è qualcuno in ascolto e sei entrato tu, ma non credo ci siano altri. Lasciamo un attimo di bianco, avanti sul 10 se c'è qualcuno. Sembra che tutto taccia. Beh, rimaniamo in tre. Busserà qualcuno dopo. Vediamo cosa sta succedendo. Cosa sta calando? C'era una bellissima preparazione fino a qualche minuto fa. Sentiva Spagna, sentiva tutta la Liguria in VHS. Solo che c'era troppa gente e non si poteva entrare neanche a fare una chiacchierata. E qua invece stranamente mi sembra più tranquilla la cosa. Si sono invertiti i parametri, diciamo, rispetto a prima. Molto freddo dappertutto. Comunque dovrebbe migliorare la prossima settimana, per poi in attesa di un peggioramento notevole. Speriamo bene, riprendi casa. Il freddo ce n'è parecchio, soprattutto lo stavo notando io la mattina che esco molto presto e 0 gradi lì verso Tutubella, -1 la mattina alle 5, poi intorno alle 9 massimo saliva a 3-5 gradi, e freddo sino diciamo a mezzogiorno che saliva intorno ai 14 come stamattina. Stamattina a mezzogiorno quando sono uscito c'erano 14 gradi. E entrando c'era 1 grado, 2 gradi. Infatti, anche qua idem, ma l'importante è che non si formi ghiaccio, poi pazienza, si cerca di scaldarsi, anche se anche quell'opzione sta diventando veramente costosa. Riprendi Natali, raccontaci qualche cosa. Io cosa ti racconto? Stavo studiando. Studiando medicina. Ma cosa medicina? Adesso sento tanta gente che sta fissando con la voglia di fare quella cosa. Poi però alla fine non si sente nessuno, ma adesso. Non ho più voglia di studiare, a 57 anni tutta la vita che ho studiato, basta adesso, già va bene da 27, non ne ho assolutamente, se lo dovevo fare quello l'avrei voluto fare da prima, ma adesso non ne ho più voglia e forse ho anche meno tempo adesso, quindi niente da fare. Io mentre parlava Gianfranco ho sentito una fischiata sotto e non vorrei sbagliare, ma è Claudio. Adesso mi fischio anche sopra o sotto. Anzi, chi aveva bussato prima? No, forse non è lui, no, forse tra qualcuno di passaggio, ogni tanto c'è un fischio, no? Ci sono tanti fischi ma nessun fiasco. Davvero. Tante volte anch'io sento fischi eccetera, avanti sul canale 10 eccetera, e non ti risponde mai nessuno, e t'hanno solo voglia di fischiare niente fiaschi. Come diceva quello, tutto fumo e niente arrosto. ma io infatti da tempo non rispondo più ai fischi, solo alle chiamate, se c'è qualcuno che chiama un conto, ma se fischi, fischietti, trombette, trombettine, lascio perdere, sono una perdita del tempo. Niente, ci ha fatto perdere pure il filo lì del discorso. Adesso quando ti aspetta Carlo, stanotte o domani mattina presto? No, ho lavorato stamattina e quindi domani c'ho la giornata libera, perché ogni 4 giorni abbiamo un libero, poi facciamo 4 pomeriggi e poi abbiamo libero e riposo, quindi faccio 4-1, 4-2. Ho capito. Ma ascolta, una curiosità mia, perché vedo poi alla fine poca roba, ma come traffico è veramente scarso, giusto? Sto aeroporto è proprio, sta andando e scendendo, confermi? Sì, stamattina praticamente c'erano i 2 voli della continuità territoriale che li sta facendo Volotea e partono uno alle 7 e l'altro alle 7:15. Dalle 7:15 sino alle 10:40 siamo rimasti chiusi, non c'era nessuna attività di volo, facciamo solo il presidio, capito? E poi aspettiamo alle 2 ore prima di mezzogiorno e mezzo, che c'era il volo di Pisa invece, quindi apriamo 2 ore prima, quindi 10:30, 10:40 abbiamo aperto e siamo rimasti lì sino. Io, siccome sono entrato prima per l'accensione macchinari, sono uscito a mezzogiorno. Ho capito. La stessa cosa mi sembra che stia verificando sul lato delle navi, proprio poca roba, perché per chi fa ascolto se ne accorge subito. Io mi ricordavo paio d'anni fa, anche Natalino sicuramente so ricorda, c'era tantissimo traffico, adesso invece è poco, è tutto diminuito, proprio poca roba. Continuo a sentire lì quelli dei bagagli, mi fanno ridere, perché mi sembra che quando arrivi in aereo dici sta arrivando, come per dire che stiamo lì aspettando l'aereo, tipo quei venditori dalle bancarelle, no? Se continua così sa che succede, veramente tutto diminuisce. Riprenditelo, Natalino. È un attimo che stavo discutendo con la 50. E stavo girando il minestrone, ho capito. Riprendi Carlo. Sì, Gianfranco, confermo, attualmente poca roba, pochi voli, 3-4 la mattina e 5 di pomeriggio, più o meno la media è quella. E adesso così rimarrà sino alla prossima settimana, forse poi la settimana diciamo delle feste magari ci sarà qualche voletto in più. In passato mi ricordo che a Natale arrivavano quei voli charter tipo della Tunisair che faceva Alghero a Mamet, sino a dopo la Befana, diciamo, avevano passeggeri e i voli pieni. Poi c'era Helsinki, c'erano diverse destinazioni, rafforzavano anche Londra, adesso Londra non c'è più, l'hanno tolto, era un volo che era sempre pieno. Quindi adesso con la pandemia in Inghilterra non ci sta andando quasi nessuno, chi è lì di italiani e lavorano se ne stanno lì secchi e pesti, perché per spostarti dall'Inghilterra al resto d'Europa adesso è un casino, passaporto, controlli anti-Covid, devi avere tamponi fatti attuali, insomma, e che siano quelli validi, no? Quelli veloci non li stanno più considerando, quindi è una spesa enorme spostarsi adesso, quindi anche per quello sta viaggiando meno gente, solo i voli nazionali, noi abbiamo Roma, Milano, Pisa, Bologna, Bergamo, Napoli, o qualche altra cosa che mi sfugge, poi di voli stranieri è rimasto poco, adesso da febbraio in poi iniziano a crescere anche quelli, comunque, speriamo bene con la pandemia. Sì, speriamo bene. A me fanno ridere gli americani, non andate in Italia, perché è un paese a rischio. Cioè questi sono CPI, non sono guardati loro. Semmai dovremmo dire noi quelle cose non andate negli Stati Uniti, perché la situazione è di nuovo molto più grave di quella nostra. Non si capisce più niente. Vabbè, vediamo se Natalino ha finito. Sì, ho finito di chiacchierare, ogni tanto mi interrompe, sembra fatto apposta. È così, il problema è quando non ti interrompono neanche, ricordatelo, sempre meglio avere qualcuno con cui chiacchierare. Ti volevo dire, infatti, Carlo, ma contestualmente anche i voli non stanno volando pieni, gli aerei stanno, anche lì ci deve essere pochissima gente. No, diciamo che i pochi voli che ci sono sono quasi tutti pieni, quelli Ryanair, il Bergamo, Pisa, Bologna, quando ci sono sempre pieni, 180-187 passeggeri, che è il massimo della capienza, mentre invece quelli della continuità sono pieni il lunedì, il martedì e poi tendono a diminuire con massimo 80-100 passeggeri in mezzo alla settimana. Poi per il fine settimana si riempiono, perché comunque la gente va a farsi un giretto a Roma o a Milano, adesso in occasione delle feste, finché si può viaggiare col Green Pass, almeno nelle grandi città qualcuno ci sta continuando ad andare, però sì, non sono pieni come l'estate, capito? Anche per quello che ho sentito c'è un freddo cane, veramente. Da noi che siamo più in basso c'è freddo a livello di 3 gradi, 2 gradi, 0 gradi. E di là vanno sotto lo zero, stavo sentendo alcuni colleghi lì che sono in Liguria, Piemonte, eccetera, ma veramente è micidiale, non si esce di casa e chi non c'ha il riscaldamento è inguaiato forte. Ok, vediamo un po'. Natalino, riprendi. Sì. E cosa vuoi che riprenda? Non ne ho voglia oggi, sono stanco morto. Ah, per forza, sei sempre sul tetto con questo cavolo d'antenna, facendo buchi, trappanando, ma cosa devi mettere? Sì, per il momento non ho fatto niente, ho piazzato solo la X30, figurati, l'ho preparata per metterla sul palo. Adesso vediamo un po', appena abbiamo 5 minuti di tempo piazziamo il tutto. Sì, 5 minuti, 5 ore. Io da 5 ore, ci vuole poco a piazzare. Si dice sempre così. Poi mi è risalita, ci sono quasi S9 la propagazione. Quasi S9, tre immagini, cala di colpo tipico del VHF e poi scende, è altalenante, è così, ti prendi Carlo? Tempo ce ne vuole a piazzare le antenne, non è cosa da poco, infatti ha fatto bene Natalino, se non sbaglio mi sembra di aver capito che ha piazzato le zanche, diciamo, i sostegni, no, per il tubo, quindi se ha fatto quello è già parecchio, diciamo, è almeno il 50% del lavoro. Poi si tratterà di fissare il tubo e la relativa antenna col cavo, e non è cosa da poco, dai, perché se non hai una posizione poi molto agevole, ovviamente ci vuole l'aiuto, però almeno buona un'oretta, due, se tutto va bene sono necessarie per quei lavori lì. Quelle le zanche ci sono già, devo scenderne una e piazzare l'altra. Ah, ho capito Natali, e quindi c'è un bel da fare, ma piano piano, se resiste il tempo buono, magari un po' oggi, un po' domani già riuscirai a fare qualcosa. Il problema è quando piove, come le settimane scorse che non, proprio non ti dava tregua, no? Smetteva un attimino di piovere, poi si alzava anche il vento, pioggia, è freddo soprattutto, è freddo, perché freddo ne sta facendo. Avanti ieri ho aspettato mio figlio che arrivava da Milano e mi ha detto che il giorno prima è andato a cena con degli amici di studio, eccetera, e quando sono usciti dal ristorante c'erano meno 6 gradi alle 11 di notte, meno 6 gradi, e dice, e la mattina lo stesso scendeva sino a meno 8. Lì è così, Carlo, però c'è da dire che quando c'è quel freddo, è freddo secco, e sempre anche gente di quelle parti dove c'è sempre la neve, eccetera, che quando viene qua dice, da voi c'è molto freddo, però il problema è l'umido. Noi abbiamo questa sorta di freddo bagnato sempre, che dà più sofferenza del freddo secco tipico dove sono le montagne alte, che se vogliamo è un freddo anche sano. Il nostro invece è un freddo malato che ti porta a tanti acciacchi. Sì, hai proprio ragione. Fine settimana scorso diciamo, i muratori hanno ultimato i lavori, stavano rifacendo il bagno a casa di mia suocera che è a Bonorla, no? E là siamo oltre 546 metri, qualcosa del genere, c'è quel freddo che dici tu, è freddo carico di umidità. Siccome i muratori avevano lasciato le finestre, le porte aperte, quando siamo andati con mia moglie era praticamente, la casa era diventata una cella frigorifero, ma con l'umidità dentro, tanto che mia moglie si è messa a passare l'aspirapolvere, il battitappeto su un tappeto nel salone dove c'erano le finestre aperte, e come si piegava il pelo sotto, sembrava bagnato, umido proprio, umidiccio, e infatti non si staccavano le cose. Solo a tarda serata, quando poi abbiamo riscaldato il coso, è andato via quell'umidità e siamo riusciti a pulire finalmente questo tappeto, ma c'era l'umidità attaccata alle pareti, una cosa allucinante, freddo proprio di quello che ti fa male, ti penetra nelle ossa. Purtroppo è così. Qua invece abbiamo il problema, che più o meno identico, della condensa, che le macchine sono chiuse. Ad esempio stamattina c'era un bel sole, quindi all'interno si scaldano, poi la sera quando scende questa umidità la macchina dentro è calda, si crea vapore acqueo, quindi c'è tutto questo ambaradano ogni mattina che ti trovi la macchina, i sedili bagnati, tutto bagnato, diventa una cosa allucinante. E poi secondo che sedili sono, guarda, non li puoi neanche asciugare, non puoi neanche asciugare i vetri perché fai troppa acqua, ti conviene quindi accendere il condizionatore a manetta e aspettare che si porti via tutta questa umidità, che la faccia evaporare a me. Ma è una cosa che c'è già da parecchi giorni, proprio in corrispondenza di questi abbassamenti repentini della temperatura. E così, e poi le ossa che scricchiano, quello te ne accorgi subito, riprendi Natali. Infatti tutti i malanni che ci abbiamo è proprio dovuto all'umidità. Brecco. Avanti il Brecco, buonasera. Buonasera a tutti, non ho sentito solo a te e a Coso e a Gianfranco, non ho fatto ascolto, ditemi se c'è qualche d'un altro. E c'è anche Carlo Roberto. Buonasera, comunque ben entrato, dai. A te il micro. E c'è anche a Carlo, facciamo prendere prima a Carlo, poi a Gianfranco. Vai Carlo. Buonasera Robè, noi abbiamo attaccato da poco, se già l'hai visto, ruota 3, adesso ci sei tu e sei il quarto, non so se c'è qualcun altro che vuole entrare, se prendi Robè. Ok, aspetta, saluto a Gianfranco, vai Gianfranco. Ciao Robè, buonasera, io stavo provando sul ponte lì delle Alpi, l'R, come diavolo si chiama? C'è preparazione, adesso sta arrivando, dovrebbe essere 9, 8, 9, poco fa era calato quasi a zero e poi adesso ho visto che risalito, solo che ci sono queste con tante persone, non fa neanche entrare a chiedere se transiti, adesso sembra che non ci sia nessuno. Scusatemi un attimo, ho risposto al telefono. Giafra, scusa, mi sono distratto, cosa mi hai attaccato? Il ponte di che cosa? Replay, ti ho detto che oggi c'è la propagazione e c'è il ponte là che dovrebbe essere sulle Alpi Marittime a 575, sta arrivando forte, lo stesso c'erano anche ponti spagnoli, ponti francesi, non ne parliamo. E stavo per tentare una chiamata, ma erano talmente in tanti, poi uno sopra l'altro, fanno passaggi talmente lunghi che ci vuole una settimana prima di entrare. Capita adesso, non c'è nessuno, quindi se vuoi provare, se transiti, e tu tra l'altro sei di fronte. Ma dimmi che frequenza WU? 145, 575, la trasmissione ovviamente meno 600, il tono forse 88.5 se ce n'è, non me lo ricordo onestamente. Adesso ci provo, 145, 575, scusate un attimino, faccio una prova. Sì, riprendi callo. Niente, anch'io sono stasera a casalingo, non ho voglia di uscire, c'era da fare qualche compera per sabato che dobbiamo ultimare qualche lavoretto, però non ne avevo voglia, sono uscito prima a accompagnare mia figlia che è andata con le amiche per fare una colletta di Natale, non so, per a favore di chi, quelle organizzazioni no profit eccetera, alle 8, prima delle 8 mi ha detto che mi messaggiava per andare a riprenderla perché sono lì a San Paolo, zona via Pesta, dietro la caserma Gonzaga, diciamo in quella zona lì dove ci sono i campi di calcio. Senti, break. C'è un break per un controllo, avanti Roberto, eri in diretta, avanti per un controllo. Controllo comunque S7 radio molto bassa, parlamelo qua da me. Roberto, se puoi passare a 145 450, ci sentiamo un attimino per una comunicazione in servizio. Riprendi tu Natalino, è anche entrato da Claudio da Muros. Capo, io non lo sento, Carlo forse lo senti tu a Claudio da Muros. Sì che lo sento, forte e chiaro qua, Santiago 9+30, Radio 5, dalle parti mie, buonasera Claudio, QTH Muros, ben risentito. Avanti riprendi Natalino che forse hanno una comunicazione con Gianfranco, quindi loro si assenteranno qualche attimo. Lo so, praticamente io vi lascio Carlo che devo preparare roba per mangiare e farmi controllarmi la glicemia. Dai, ci sentiamo alle prossime o più tardi. Natalì, vi siete un po' sovramodulati, comunque ho sentito il tuo passaggio, Natalì, senza problemi, se devi fare quelle cose fai tranquillamente, io già rimango in ascolto. Carlo, ma lo senti sia Claudio? Sì, sì, gli ho risposto, a me mi arriva Santiago 9+30 con picchi positivi, Radio 5, io lo sento molto bene qua a casa mia, ho detto buonasera Claudio, QTH Muros, mi ero risentito, se non mi avevi copiato prima, ripeto il tutto, avanti Claudio. Gianfranco, scusa Claudio, se volete comunicare con Gianfranco fate pure, io sono in ascolto, e poi quando volete riprendere sul 10 fate chiamata, già rispondo. Carlo, io stavo tentando di comunicare con Roberto, ma chissà dove c'è finito. Roberto, adesso è sparito anche da qua. Andiamo bene, come non detto. Roberto, appena puoi, fatti sentire da qualche parte. Allora, Claudio, c'è freddo dalle tue parti, sì? Sono rientrato, Gianfranco. Sì. E io ti stavo chiamando di là, come uno scemo. Ma dove? Sì, buonanotte. Vabbè, dai, lasciamo perdere, rimaniamocene qua che è tutto più semplice. Claudio, ci sei? Sì. Il segnale è quasi 9:20, però la voce è molto nasina. Basso, era meglio molto prima, però la voce sembra un citofono. No, non è modulazione, è chiara, sì, però sembra che stai parlando con un citofono, non è chiaro, cioè non è niente di che. Io mi sento un attimino che voglio provare a fare una chiamata sul ponte per vedere se transita. Ma 575 eri già fratto. Sì, ma se tu ci parli in diretta, utilizza il reverse almeno, cioè utilizza lo shift. Metto lo shift, vabbè, mi ha detto sono a meno 600, il tono 88.5, così. Adesso non me lo ricordo. Devo entrare nella configurazione e vederlo. Se me lo dà un attimino che te lo do. Vediamo un po'. No, 110.9. 110.9, aspetta, vediamo. Adesso arriva fortissimo questo ponte. Cosa ti volevo dire? Claudio, l'antenna l'avevi messa a posto per lui? Sento quasi niente. Ma dice la voce è bassissima e la radio è quasi buco. Il segnale è forte, ma la radio è buco. Questi apparati residuati nella guerra mondiale. Ma quello che io voglio capire è che ho trovato i compromessi giusti perché ne devi togliere fuori questi apparati, per me è inutile. Oh Claudio, guarda che non ti abbiamo quasi sentito, sei radio zero, tutto il passaggio proprio era sottovoce. Controllati tutto, se no cambiati l'apparato perché non fa, il segnale c'è ma la radio non esiste. Carlo si era allontanato. Carlo? Sì, sì, no, sono qua, ero in ascolto. Sì, il primo passaggio quando ha chiesto il break per il controllo andava bene anche di radio. Poi sì, era un po' nasale, ma andava bene. Adesso si è abbassata notevolmente la radio. Quest'ultimo passaggio anch'io ho dovuto sollevare il volume per capire qualcosa. Sì, allora Robert, provo a fare una chiamata sul ponte, vediamo un po'. Poi rientriamo qua. Eia, vediamo, 575. No, niente da fare. È entrato uno spagnolo, non so se sia il ponte spagnolo che entra. Che entrano qua, forse non c'è tono, è un casino. Oh, mi arrivano a fondo scala qui, ci arrivano 9.60. Sono presi gli spagnoli. Boh. 9 passa. Quindi ci attacchiamo al down, dai, abbiamo capito. Oggi non si può entrare su quel ponte. Fondo scala, vabbè, c'è il proprietatore, 9.60, però sono spagnoli questi. Sì che ti ascolto, però è sempre nasina, metti un altro microfono o cambia radio. No, è un ripetitore spagnolo che sta cazzicando quello dalle Alpi. Oh, sono gli spagnoli che direttamente stanno entrando su quello. Tu. È un po' incasinato. Tu. Sì. Cerca di riparare tutto, oh Flavio, sennò è una penitenza. Sì, se vuoi ti forniamo di mazza e martello. E anche un piccone per essere sicuri. Riprendi Carlo. Sì, sì, è proprio la radio bassina. Segnale sempre forte però di Claudio. Robert, hai sentito per caso Claudio Sparviero in questi giorni perché l'altra volta brutto tempo eccetera, impegni improvvisi, io non ho avuto molto tempo per stare in radio, quindi era saltato quell'appuntamento insomma, e quindi non so, ho provato a chiamarlo anche stamattina, non so se tu l'abbia sentito, per mi voleva consegnare l'antenna e così se riusciamo a combinare uno di questi giorni, una mattina, come va bene a voi. Allora, Claudio è passato da me stamattina e insiste al telefono perché lui all'interno della casa non lo sente, deve uscire fuori perché è un po' scomodo come ricezione quella zona lì, però provo al telefono, in ogni caso lo sento io quasi tutte le mattine e passa, stamattina per dire è passato anche ieri, glielo dico, lui ce l'ha il tuo numero? No, negativo, il mio numero lui non ce l'ha, però io ti posso dire che diciamo mi sono liberato da molti impegni perché anch'io prima c'avevo lavori, muratori da seguire, ero avanti e indietro, Bonorra, Sassari, lavoro, Alghero, e quindi adesso mi sono diciamo liberato e quindi sicuramente riusciremo a fare tutto, speriamo se ci riusciamo prima di Natale insomma, perché poi andiamo sotto quella settimana dal 19 in poi e magari la gente è impegnata con prefestigiamenti e cose varie e non va bene. Se riusciamo volentieri sabato presto verso 9:30 oppure lo lasciamo anche se va bene venerdì di mattina, io sono disponibile, anche domani tutto il giorno che ce l'ho libero. Scusate Claudio, allora sabato mattina se riusciamo, siamo già d'accordo con Claudio, verso 9:30-10 dobbiamo montare sulla mia, quella per le V e la tribanda, eventualmente glielo dico domani di mettetevi d'accordo, tu prova a insistere comunque al telefono, ce l'hai WhatsApp, mandagli un messaggio di WhatsApp, ce l'hai il tuo numero di Claudio? No, negativo, non ce l'ho, il mio numero ce l'ha Antonello Pomponio, infatti con Claudio eravamo rimasti d'accordo che me l'avrebbe dato Antonello, invece Antonello gli ho chiesto il numero di Claudio e non se l'è trovato in rubrica per quello che non ce l'ho, però magari vabbè, già la tengo accesa in questi giorni la radio di mattina, di sera, per cui basta chiamare, già rispondo io in questi giorni. Scusate Claudio, ma sanno che non ci sia in radio perché normalmente mi ha impegnato con qualche cosa, quindi Antonello Polpugno non ha il numero di Claudio, mi dici tu? Sì, perché gliel'ho chiesto, lui l'ha cercato ma non se l'è ritrovato. Guarda, io frequenza non le voglio dare, non mi piace, a parte che non ho la sua autorizzazione di nessuno, se non mi autorizzano tanto me non le do in frequenza. E non so come si può fare per mettervi d'accordo. Se tu passi da me, lo sai dove lavoro io, passi domani mattina, chiedo il permesso a Claudio, se lui è d'accordo, ma penso non ci siano problemi, visto che ti avrà l'Atena, passa da me domani al lavoro e io ti do il numero di Claudio. No, dove lavori non lo so, Robè, non lo so dove lavori. Mi hai detto che tu sai dove c'è il gommista, no? Sì, quello lo so, però non so se il tuo posto di lavoro è sempre lì o da altre parti, capito? Quell'attività a fianco al gommista, non diciamo altro, una attività di riparazione auto vicino a lui, non diciamo le vie, non diciamo niente, però se sai dove c'è il gommista, hai visto l'antenna mia e quell'officina che c'è dietro l'antenna sulla strada a fianco al gommista a 20 metri. Ah, va benissimo, va benissimo. Allora ci passo domani mattina, se ti va bene, intorno 9:30-10. Quando vuoi, non c'è problema, sono tutto il giorno lì tanto. Ok, adesso facciamo venire avanti l'amico di muro. Avanti Claudio. Il segnale è sempre a 9:20, molto molto meglio di prima, però potrei trattare un po' il Mickey Gain, leggermente è carica di bassi, mancano un po' di acuti, però ti ascolto, molto molto meglio di prima. Sì, si può questa è perfettissima, va bene, ottima, non toccare niente, chiediamo conferma agli altri amici. Avanti Gianfranco che c'è più lontano e poi l'amico Carlo. Vai Gianfranco per Claudio. Sì, adesso va bene, rispetto a prima che praticamente non c'è la radio, è tutta un'altra cosa. Riprendi Roberto. Aspetta Carlo, avanti tu il Carlo, il commento. Sì signore, adesso è arrivato molto meglio, Claudio da Muros, la radio era insomma decisamente. Quando l'ha alzata poi andava, il primo passaggio era sempre bassa, poi ha toccato qualcosa e l'ultimo passaggio che ha fatto è, ha guadagnato parecchio di radio, però il segnale è sempre lo stesso, 9:30 a me mi arriva. Certo, 9:30 addirittura, più forte di me ti arriva. Sì, sì, 9:30 perché io ho i LED e quindi mi si illumina, 9 più, ho 5 tacchette e poi il 10 e quindi 9:30. Ottimo, vuol dire che l'antenna sta funzionando bene. Ieri sera sono riuscito a far sistemare anche a Mirko, che era in condizioni un pochettino precarie di radio eccetera, stava uscendo con un apparato un po' più serio, andava benissimo, ho sistemato il microfono e non so se stasera entra, perché mi ha detto che entrava, così vi chiedo i commenti anche a voi. Di nuovo a Gianfranco il mic. Sì, sì, ok, va bene, sono le 7 e io me ne vado a cena. Ci sentiamo più tardi, alle prossime, ciao a tutti, buona serata per il momento. Chi scattava? A Claudio, riprendi tu Claudio. Sì, il telefono, scusatemi un attimo di nuovo. Riprendo io che Roberto mi sa che ha ricevuto una chiamata. Ciao Gianfranco, ci sentiamo alle prossime, buona cena, buon tutto, quando vuoi ci siamo, bussa. Ciao, avanti Claudio. Sì, 5 ottavi, già è un'ottima antenna quella. Sì, si può accendere, è un pochettino un'eccezione, non è che guadagna molto un'eccezione, perché è un po' che più assorba, diciamo, un'eccezione, perché infatti la voglio sostituire quando ho la possibilità, nel caso mi dovesse funzionare male, adesso quest'anno la lascio, perché l'ho appena cambiata, un gennaio che mi si era rotta l'altra, che era uguale identica a questa, mi si è sono, diciamo, in un'ottima posizione qua, poi dove ho piazzato l'antenna sopra un palazzo di 6 piani, e, diciamo, tutto aperto, da qui vedo la Sinara, vedo tutto Ossi, e anche oltre, e tutta la zona di Monte Bianchino, quindi vicino non ho altri palazzi, e quindi la zona è molto aperta, quindi arrivo molto bene un po', insomma, nei dintorni, nei paesi vicino a Sassari, nel circondario, con quest'antennino, diciamo che va bene, però anche io la vorrei cambiare, perché anche qua quando c'è il QRM alto non si capisce niente, devi sollevare tutto lo squelce e quindi alla fine senti solo i segnali forti e gli altri li escludi automaticamente. Io sto per metterla quel tipo di antenna lì, me la deve dare Claudio Spaziero, che lui ce l'ha, infatti ci stiamo mettendo d'accordo per darci un appuntamento, così me la consegna e sicuramente andrà meglio di questa che ho. Ciao Carlo. Così con i 4-5 watt nel caso poi posso anche aumentare qualcosa sicuramente. Ciao Carlo. Canale 10, ho sentito, ciao Carlo, però parlava Claudio da Muros e quindi solo adesso ti posso far entrare. Avanti, chi chiama? Sono rientrato io, Carlo, scusatemi l'assenza, ero al telefono. Robe, no, perché prima ho sentito una chiamata e però stava parlando Claudio e quindi non ho potuto rispondere subito per non interrompere. Riprendi Claudio da Muros. Sì, Carlo, sì, probabilmente sarà stato qualcuno, Mario, che l'ha imparato l'apparato, oppure cosa ti volevo dire, Claudio qualcosa, boh, mi sono dimenticato. Ma hai sollevato ancora un po' di più di segnali. Negativo, no, 180, ok, ma come ti sembra adesso? Buona la modulazione, Santiago, se non mi fai preoccupare, ok, quindi come sta andando, riprendi? No, 6920 spaccato, la radio perfetta, 5, niente da dire. Quanto ti arriva Carlo di lì a Muro, per curiosità? Carlo, un sacco di soldi, infatti ci sono rimasto all'ufficio proprio, è un segnalone pazzesco, 9.30, 9.35, poi ha tutti i positivi, allora quando è molto importante gli arriva 9.30, quando parla sale 9.35 di segnale, ed è molto forte, se non è che cosa faccio più io, cosa posso le due, mi arriva, non è che arriva, c'è un'infezione, tira sotto i segnali, non soffizia da un segnale, quello che voglio dire, e dovrebbe tirare qualcosa di più di sezione, non finisce, ma è fatta così di fabbrica, non mi permette di toccare assolutamente, non so perché è l'uomo di becca e poi anche quello che mi è portato a bere questo apparato che lo desideravo tanto, lo lascio così perché è una radio da collezione, e riguardo il porto di ferro, però non lo so con quanta potenza funziona più, lui dice che sta andando 5 watt, capito, è, però arriva forte, è fortissimo per avere 5 watt, infatti mi faccio ancora i complimenti, guarda che è pazzesco, veramente, complimenti Carlo, ti ringrazio. E lui, figurati, è con un'antenna non eccellente, diciamo, non ha una mantova, l'ha messa in... prima era un dipolo, c'hai Carlo, confermi? Sì, sì, l'SD27, dipolo della Sirio, quello piccolino. Ma una domanda, se lo vuoi dire, ti stai aiutando con qualcosa? No, al momento no, però ho qualcosa anche. E qua sei 9.55, c'hai picchi quasi a 9.60, il segnale di Antonello Pompugno, oggi sei più forte del solito, infatti, che strano, che arrivi a nulla. Muros, probabilmente sei più aperto di me, io ho qualche palazzo dietro, tu hai, sei, non so se sei più in alto di me, questo non lo posso dire, però probabilmente c'è un canalone da Piazza dei Signi, riesci a passare. E ho la possibilità, domani salgo sul tetto, faccio un po' di foto così te le faccio vedere, se vengo a trovarti domani, e ti faccio vedere com'è la situazione della mia antenna, tutto aperto, è tutto aperto, io ho anche un'ottima visuale, vedo tutto Monte Oro, l'Asinara, insomma, non ho palazzi vicino perché ce li ho tutti distanti. Sì, sì, complimenti, un'ottima, ottima posizione. E considerando ancora non hai montato l'antenna, quella di Claudio, se monti quella facci in idea gli uccellini. Sei già quasi 9.60, sei 9.55, qua con il picco arrivi a 9.60. Il segnale di Antonello Pompugno, che siamo in linea d'aria, cosa possiamo essere, 400 metri, 500 metri, dai. E lui è più in alto di tutti, molto più alto di me. Ho trovato anche un palo di sostegno bello grosso di quello zingato, ma di altri tempi in garage, adesso però lo devo misurare, se arriva a 3 metri e qualcosa e riesco a portarlo su, lo levo quello che c'è e lo sostituisco con questo, così poi ci metto quella di Claudio lì. Non alzate troppo, tanto non è necessario sollevarti troppo, ti prendete con la tenna alta 8,5 metri, per cui se c'è un po' di vento dobbiamo stare un po' attenti, non mettere troppi pali alti perché poi dovrei mettere i tiranti e crei problemi. Un palo di 3 metri ce n'è in abbondanza. Sì, ma è per abbassarmi da quello che ho di tubo, perché quello che ho è un tubo zingato di quelli telescopici e diciamo sono andato sopra le antenne TV perché avevo paura se no di magari disturbare eccetera. Però mettendo quella sì, in effetti posso abbassarmi un pochettino. Sì, sì, a voglia, quell'antenna la puoi mettere anche a un metro da terra, è particolare, non è un'antenna classica, diciamo come una mantova che ha necessità di almeno 3 metri di distanza dal suolo. Vediamo a Fabio, a Claudio di Muro, davanti a te il mic. Sì, si può scendere, arriva forte, veramente. Io poi stasera mi sono accordato con i stazionari, però ho scelto minimo anche con qualche stazione che lo devo sostituire, mi sono preso con il famoso, me lo ricasco, però non tanto mi sento una vibrazione di come faccio la corrente, con il schiaccio la portante, lo devo risolverlo, cioè, capito, perché ogni tanto magari c'ha delle curve un po' di potenza questa cosa, e infatti ogni tanto mi vado accordando ogni tanto, perché c'è anche l'accordatore adesso, e capito, ma la faccio bene, perché a volte vedi che tiro... Cos'è, un watt e mezzo, 2 watt che arrivano 2-10 diretti, quindi l'antenna va molto bene, però la voglio sollevare anch'io per spingere di più, Dovessi cambiare antenna sicuramente migliori la situazione, soprattutto la cosa più fastidiosa è quando c'è il QRM molto alto, capito, che non è molto piacevole. Con la J-Pol tutti questi problemi insomma dovresti in buona parte risolverli se metti una 7 ottavi del genere, perché io ho visto un po' le caratteristiche, quello che mi ha detto Claudio, diciamo, e lo so che lui è esperto eccetera, l'ha usata e quindi ho visto un po' le recensioni eccetera, e mi sembra un'ottima antenna, capito? Spero di metterla, di riuscire a metterla quanto prima, se fa tempo buono, soprattutto perché non so se mi porterà via anche un po' di tempo per la regolazione, insomma. Vediamo un po', avanti Roberto. Sì, come Claudio, eccellente, l'antenna, niente da dire, va benissimo. Una domanda a Claudio, è l'apparecchio nuovo, come è andato a finire? Ne prendo un altro, quello che hai, se devi sostituire, il grande, diciamo. Sì, si può scendere, perché quello lo vuole comprare, l'altro, adesso quindi, mi ha rimborsato anche 200 euro in più, Nicola, adesso valutando cosa prendere, non voglio fare scelte affrettate, capito, perché con l'altro lo devo decidere. Thank you.